La signora Thornton era schiva. Soltanto negli ultimi anni aveva avuto abbastanza tempo libero per frequentare la società e come società non le piaceva. Trovava soddisfazione nell'organizzare cene e nel criticare quelle degli altri, ma da questo a fare conoscenza con degli estranei, ce ne voleva. Non era a suo agio e pareva ancora più rigida e severa del solito quando fece il suo ingresso nel piccolo salotto degli Hale. Margaret era tutta impegnata a ricamare un piccolo pezzo di cambrì, una tela di cotone molto fine per biancheria, per un vestitino per il figlio di Edith. Un lavoro inconsistente e inutile, osservò la signora Thornton tra sé e sé. Le piaceva molto di più il grosso filato di lana della signora Hale, sembrava funzionale nel suo genere. La stanza era completamente piena di soprammobili. Oh, spolverarli doveva richiedere molto tempo e il tempo era denaro per chi aveva un reddito limitato. Faceva tutte queste riflessioni mentre conversava con la signora Hale col suo solito modo formale, pronunciando tutti gli stereotipi e i luoghi comuni che la maggior parte delle persone trova da dire senza pensare. La signora Hale faceva sempre più fatica a rispondere, colpita da un autentico merletto antico che la signora Thornton indossava. Un merletto, come poi fece notare a Dixon, di quel vecchio punto inglese che non si fa più da 200 anni e che non si può comprare. Deve essere un cimelio di famiglia e dimostra che tipo di antenati abbia. Così la proprietaria dell'atavico merletto divenne degna di qualcosa di più, di uno sforzo apatico per la dovuta cortesia nei confronti di un ospite con il quale la signora Hale avrebbe altrimenti limitato i suoi tentativi di conversazione. Poco dopo, Margaret, mentre metteva tutto il suo impegno per parlare con Fanny, sentì sua madre e la signora Thornton immergersi in un interminabile discorso sulla servitù. «Suppongo che non siate appassionata di musica», disse Fanny. «Infatti non vedo nessun pianoforte». Oh, mi piace ascoltare la buona musica. Io non so suonare bene e a mamma e papà non interessa molto, così abbiamo venduto il vecchio piano quando siamo venuti qui. Oh, mi chiedo come si possa vivere senza. Per me è quasi un bene di prima necessità. 15 scellini alla settimana e 3 dei quali messi da parte, pensò Margaret tra sé e sé. Ma lei doveva essere molto piccola, probabilmente ha dimenticato la sua esperienza personale, eppure senz'altro saprà di quei giorni. Margaret fu un po' più fredda nei modi quando venne il suo turno di parlare. Avrete bei concerti qui, immagino. Oh sì, deliziosi. Troppo affollati, questo è il brutto. I direttori ammettono tutti indiscriminatamente, ma si può star sicuri che qui si ascolta la musica più nuova. Vado sempre da Johnson con un grosso ordine il giorno dopo un concerto. Vi piace la musica recente soltanto perché è nuova, allora? Oh, si sa che è di moda a Londra, altrimenti i cantanti non la porterebbero quassù. Di sicuro sarete stata a Londra. Beh, sì, disse Margaret. Ho vissuto lì per parecchi anni. Oh, Londra! Londra e l'Alhambra sono due posti che desidero tanto vedere. Londra e l'Alhambra? Sì, da quando ho letto i racconti dell'Alhambra di Irving. Non li conoscete? Non mi pare, ma di certo andare a Londra non è difficile. No, ma per qualche ragione, disse Fanny abbassando la voce, la mamma non è mai stata a Londra e non riesce a comprendere il mio desiderio. È molto orgogliosa di Milton. Per me è una città sporca e fumosa. Credo che la preferisca proprio per queste caratteristiche. Beh, se è la sua casa da anni, posso ben comprendere che la signora Thornton l'ami, disse Margaret con la sua voce chiara e squillante. Che cosa state dicendo di me, signorina Hale? Posso saperlo? Margaret non aveva parole pronte per rispondere a questa domanda, che la colse un po' di sorpresa, e così fu la signorina Thornton a replicare. Oh, mamma, stiamo soltanto cercando di spiegare il fatto che tu sia così affezionata a Milton. Grazie, disse la signora Thornton. Non credo che la mia più che naturale simpatia per il posto in cui sono nata e cresciuta e che da anni è il luogo in cui vivo abbia bisogno di spiegazioni. Margaret era infastidita. Da come l'aveva messa Fanny, sembrava davvero che avessero discusso con insolenza dei sentimenti della signora Thornton. Tuttavia anche lei si risentì dei modi con cui quella signora aveva mostrato di essere stata offesa. La signora Thornton continuò dopo una breve pausa. Sapete qualcosa di Milton, signorina Hale? Avete visto qualche nostra fabbrica, i nostri splendidi magazzini? No, rispose Margaret, non ho visto ancora nulla che corrisponda alla vostra descrizione. Poi sentì che, nascondendo la sua totale indifferenza per tutti quei posti, non parlava in modo completamente sincero e così continuò: Mi permetto di dire che papà mi avrebbe già accompagnata se mi fosse interessato, ma davvero non trovo nulla di piacevole nell'andare per le fabbriche. Sono luoghi davvero curiosi, aggiunse la signora Hale, ma c'è sempre così tanto rumore e tanto sporco. Ricordo la volta in cui andai in una fabbrica per vedere come facevano le candele, il mio abito di seta lilla si rovinò tutto. Plausibile, disse la signora Thornton in modo seccato e conciso. Io penso semplicemente che in quanto forestiere appena venute a vivere in una città che ha raggiunto la fama in tutto il paese, per la qualità e il progresso della sua particolare attività commerciale avreste potuto premurarvi di visitare alcuni dei luoghi in cui essa viene portata avanti, luoghi unici nel regno, dicono. Qualora la signorina Hale cambiasse idea e si degnasse di interessarsi alle fabbriche di Milton, posso soltanto dire che sarei lieta di procurarle il permesso per vedere i lavori di stamperia o di pettinatura o le semplici operazioni di filatura portate avanti nella fabbrica di mio figlio. Ogni progresso delle macchine ritengo vada visto qui, dove esso raggiunge il più alto livello di perfezione. Oh, sono così contenta che non vi piacciono gli stabilimenti e le fabbriche e tutte quelle cose lì, disse Fanny sottovoce mentre si alzava per accompagnare sua madre che si affrettava a congedarsi decorosamente dalla signora Hale. Io penso che ne vorrei sapere tutto se fossi in voi, disse Margaret piano. Fanny, disse sua madre mentre erano in carrozza, saremo cortesi con queste Hale, ma non stringere con la figlia una delle tue solite amicizie precipitose. Ritengo che non ti farebbe bene. La madre non sembra molto in salute, pare una persona tranquilla, graziosa e gentile. Non voglio diventare amica della signorina Hale, mamma, disse Fanny imbronciata. Pensavo di fare il mio dovere parlando con lei e cercando di intrattenerla. Perfetto. Ad ogni modo, adesso John sarà soddisfatto. 13. Una leggera brezza nella calura opprimente. Margaret si precipitò di sopra non appena le loro ospiti se ne furono andate, indossò il suo cappellino e lo scialle per correre a domandare come stava Bessie Higgins e per stare con lei fin tanto che poteva prima dell'ora di cena. Mentre procedeva per le strade strette e affollate, si accorse di quanto interesse queste si erano guadagnate per il semplice fatto che aveva imparato a voler bene a una che vi abitava. Mary Higgins, lasciata sorella più piccola, aveva tentato di mettere in ordine la casa meglio che poteva per quella visita tanto attesa. Il pavimento di pietra grezza era stato lavato al centro, mentre le parti sotto il tavolo e le sedie e quelle accanto alle pareti apparivano sporche come sempre. Sebbene fosse una giornata calda, ardeva un fuoco enorme nel focolare che scaldava tutta la stanza trasformandola in un forno. Margaret non capì che quella prodigalità di carbone era un segno di ospitalità verso di lei da parte di Mary. E pensò che forse quel caldo opprimente era necessario per la sorella. Bessie stava distesa su un morbido e grosso cuscino usato come divano, una specie di corto soffà posizionato sotto la finestra. Era molto più debole del giorno precedente e stanca di alzarsi a ogni rumore di passi per guardar fuori e vedere se era Margaret che arrivava. Ora che Margaret era lì e si era presa una sedia, Bessie si distese in silenzio, contenta di guardare il volto di Margaret e di toccare il suo vestito con un'ammirazione infantile per la bellezza del tessuto. Non ho mai capito perché un tempo alla gente nella Bibbia piacevano gli indumenti morbidi, ma deve essere bello andar vestiti come fate voi. È diverso che il solito. La maggior parte della gente raffinata mi stanca gli occhi coi suoi colori, ma c'è qualcosa in voi che mi fa rilassare. Dov'è che l'avete preso questo abitino? A Londra, disse Margaret molto divertita. Londra? Davvero che siete stata a Londra? Sì, ho vissuto lì per qualche anno, ma la mia casa era in una foresta, in campagna. Oh, raccontatemi, disse Bessie. Mi piace sentir parlare della campagna e degli alberi e di cose di sto tipo. Si appoggiò all'indietro, chiuse gli occhi e incrociò le braccia sul petto, mettendosi a suo agio, come per cogliere tutte le idee che Margaret poteva suggerire. Margaret non aveva mai parlato di Helston da quando l'aveva lasciata, se non nominandola per caso. Nei sogni la vedeva più vivida di com'era nella realtà e la sera, prima di addormentarsi, lasciava vagare la memoria per tutti i suoi bei posti. Ma questa ragazza aprì il suo cuore. Oh, Bessie, amo moltissimo la casa che abbiamo lasciato. Magari tu potessi vederla. Non riesco a dirti neanche metà della sua bellezza. Ci sono grandi alberi tutt'attorno che tendono i loro rami lunghi e piatti, creando un'enorme ombra di ristoro anche a mezzogiorno. E poi, sebbene ogni foglia possa sembrare ferma, si sente un fruscio continuo tutt'attorno, abbastanza distante, non così vicino. A volte poi il manto erboso è soffice e fitto come il velluto, altre è più rigoglioso per l'umidità perenne di un piccolo ruscello zampillante nascosto lì vicino, e poi in altre parti ci sono felci fluttuanti, intere distese di felci, alcune a volte dall'ombra verde, altre striate dai raggi dorati del sole, proprio come il mare. Non ho mai visto il mare, mormorò Bessie, ma continuate. Poi, qua e là ci sono vasti pascoli, molto in alto, come se fossero proprio sopra le cime degli alberi. Che bello! Mi sentivo soffocare come se ero stata sottoterra. Quando uscivo volevo sempre arrivare in alto e guardare lontano e riempirmi i polmoni di tutta quell'aria. Spesso mi manca l'aria a Milton e penso che il rumore tra gli alberi di cui parlate, un rumore che continua in eterno, mi stordirebbe, che è quello il rumore che mi faceva venire il mal di testa in fabbrica. In questi pascoli, però, penso che non c'è tanto rumore, vero? No, disse Margaret, nient'altro che una allodola lassù nel cielo. A volte udivo distintamente un fattore che parlava a voce alta ai suoi braccianti, ma era così distante che non faceva altro che ricordarmi con piacere che altre persone stavano lavorando duramente in qualche luogo lontano, mentre io me ne stavo semplicemente seduta sull'erica senza fare nulla. Un tempo pensavo che se potevo stare un giorno senza fare niente per riposarmi, un giorno in un luogo tranquillo come quello di cui avete parlato prima, forse mi sarei rimessa in sesto. Ma adesso i miei giorni di riposo li ho avuti e sono stufa di loro, proprio come lo ero del mio lavoro. Qualche volta sono così esausta che penso che non potrò godermi il paradiso se non mi riposo un po' prima. Ho quasi paura di andare direttamente lì, senza farmi un buon sonno nella tomba per rimettermi in sesto. Non avere paura, Bessie, disse Margaret, posando la sua mano su quella della ragazza. Dio può darti un riposo più completo di qualsiasi ozio sulla terra o del sonno senza vita della tomba. Bessie si agitò, poi disse: Non voglio che papà dice queste cose. Le sue intenzioni sono buone, come vi ho detto ieri e vi continuerò a ripetere, ma capite anche, se il giorno non gli credo neanche un po', la notte, invece, quando ho la febbre sono mezza addormentata e mezza sveglia, mi torna in mente. Oh, che male! E penso se questa deve essere la fine di tutto e se sono venuta al mondo solo per buttare via la mia vita e il mio cuore e ammalarmi in questo luogo arido, arido, con quei rumori di fabbrica continuamente nelle orecchie fino a che non riuscivo a gridare per farli fermare e permettermi un po' di pace, e con quella lanugine che mi riempiva i polmoni finché non morivo dalla voglia di un lungo respiro profondo di quell'aria pulita di cui parlate. E mia madre morta, e io che non ho più potuto dirle quanto l'amavo e tutti i miei problemi. Penso che se questa vita è la fine, e se non c'è nessun Dio ad asciugare le lacrime dagli occhi di tutti, voi, ragazza mia, voi, disse mettendosi seduta e stringendo forte la mano di Margaret quasi con violenza, potrei impazzire e uccidervi, sì che potrei. Cadde all'indietro completamente stremata da quell'ardore. Margaret si inginocchiò accanto a lei. Beh, sì, abbiamo un padre nei cieli. Lo so, si lamentò voltando in modo irrequieto il capo da una parte all'altra. Sono molto cattiva, ho detto cose molto malvagie. Oh, non avrete mica paura di me da non tornare mai più, non vi torcerei neanche un capello. E poi, aprendo gli occhi e guardando Margaret seria, credo forse più di voi in quello che ci aspetta. Leggo il libro dell'Apocalisse fino a saperlo a memoria e non dubito mai quando sono sveglia e cosciente di tutta la gloria che mi attende. Oh, non parliamo delle fantasie che ti vengono in mente quando hai la febbre. Preferisco sentire qualcosa di quello che facevi di solito quando stavi bene. Poi Penso che stavo bene quando mamma è morta, ma da allora la mia salute va e viene. Dopo un po' ho iniziato a lavorare in una carderia e la lanugine mi è entrata dentro i polmoni, intossicandomi. Lanugine? Disse Margaret con aria inquisitoria. Lanugine, ripeté Bessie. Piccoli fiocchetti che volano via dal cotone mentre lo cardano e riempiono l'aria fino a che sembra tutta una sottile polvere bianca. Si dice che si attacca ai polmoni e li stringe. Comunque c'è più di uno che mentre lavora la cardatura cade tra gli scarti, tossendo e sputando sangue proprio perché è intossicato dalla lanugine. Ma non si può fare nulla? Chiese Margaret. E che ne so? Certa gente ha una grande ruota in fondo alla carderia per fare corrente e portare via la polvere, ma quella ruota costa un sacco di soldi, 500 o 600 sterline forse, e non porta guadagno. Per questo i padroni che le mettono sono pochi. E ho sentito dire di operai che non volevano lavorare in posti dove c'era la ruota, perché dicevano che faceva venire fame, dopo che per tanto tempo si erano abituati a ingerire lanugine e a non averla, e che i loro salari dovevano essere aumentati se dovevano lavorare in certi posti. Così, un po' per i padroni, un po' per gli operai, la ruota fu un fiasco. So che la volevo una ruota nella nostra carderia, però. E non ne sapeva nulla tuo padre? Chiese Margaret. Sì, e se la prendeva, ma la nostra fabbrica non era male, tutto sommato, e il gruppo di operai era più o meno fisso, e papà aveva paura di farmi andare da sola in un luogo sconosciuto, perché, anche se adesso non lo potete pensare, in molti mi dicevano che non ero da buttare e non mi piaceva se pensavano che ero deboluccia e delicata. E poi bisognava continuare a pagare gli studi a Mary, diceva mamma. E invece a papà gli è sempre piaciuto comprare libri e andare a lezioni di qualsiasi cosa, e tutto questo costava. Così non ho fatto altro che continuare a lavorare finché non sono più riuscita a mandare via il ronzio dalle orecchie o tutta la lanugine di sto mondo dalla gola. Tutto qui. Quanti anni hai? 19 il prossimo luglio. Anch'io ho 19 anni. E pensò, con più tristezza di Bessie, a quanto fossero diverse. Per qualche istante non riuscì a parlare per l'emozione che cercava di reprimere. A proposito di Mary, disse Bessie, volevo chiedervi di esserle amica. Ha 17 anni, ma è la più piccola della nostra famiglia e non voglio che vada in fabbrica e allo stesso tempo non so a cosa è adatta. Non potrebbe fare. Inconsciamente Margaret diede un'occhiata agli angoli sporchi della stanza. Non sarebbe capace di fare la domestica, vero? Abbiamo una vecchia fidata domestica, quasi una di famiglia, che ha bisogno di un aiuto, ma che è molto esigente. Non sarebbe corretto infastidirla con una collaboratrice che in realtà sarebbe più una seccatura che altro. No, certo, penso che avete ragione. La nostra Mary è una brava ragazza, ma chi ha avuto per insegnarle come si fa a mandare avanti una casa? Nessuna mamma. E io sono stata in fabbrica finché non sono diventata una buona nulla, capace solo di sgridarla perché faceva male quello che io non sapevo fare proprio. Magari che può vivere con voi, malgrado tutto. Ma anche se non fosse proprio adatta per venire a vivere con noi, come domestica, e io questo non lo so, cercherò sempre di esserle amica, per amor tuo, Bessie. E ora devo andare, ritornerò non appena mi sarà possibile, ma se non dovesse essere domani o il giorno successivo, o addirittura una settimana o due a partire da oggi, non pensare che ti abbia dimenticata, potrei essere impegnata. Oh, so che non vi scorderete di nuovo di me, non dubiterò più di voi, ma non dimenticate, tra una settimana o due potrei essere morta e sepolta. Verrò appena posso, Bessie, disse Margaret stringendole forte la mano, ma tu fammi sapere se peggiori. Oh, lo farò, disse Bessie ricambiando la stretta. Da quel giorno in poi la malattia della signora Hale peggiorò sempre di più. Si stava avvicinando l'anniversario delle nozze di Edith. E guardando indietro al mucchio di problemi che si erano accumulati in un anno, Margaret si stupì di come avevano fatto a sopportarli. Se avesse potuto prevederli, si sarebbe tirata indietro e come, e si sarebbe nascosta al futuro. Eppure le giornate da sole erano diventate via via più tollerabili. Piccoli, intensi e luminosi attimi di innocente godimento apparivano come lucenti scintille nel bel mezzo della sofferenza. Un anno fa o in precedenza, quando era stata a Helston e per la prima volta si era accorta, senza dire nulla, del carattere lamentoso di sua madre, avrebbe brontolato amaramente all'idea di una lunga malattia da sopportare in un luogo estraneo, desolato, rumoroso e sempre in movimento, con meno comodità in qualsiasi ambito della vita domestica. Ma con l'aumento di disturbi seri e motivati, una pazienza nuova si era sviluppata nella mente di sua madre. Sopportava in silenzio e con serenità l'intensa sofferenza fisica, in misura quasi paragonabile a quanto era stata inquieta e depressa quando invece non c'era stato nessun motivo reale di afflizione. Il signor Hale era esattamente in quello stato di apprensione che in uomini come lui assume la forma ostinata della cecità. Era più irritato di quanto Margaret lo avesse mai visto a causa della preoccupazione che la figlia gli aveva manifestato. Davvero, Margaret, stai fantasticando. Lo sa Dio che sarei il primo ad allarmarmi se tua madre fosse veramente malata. Ci siamo sempre accorti quando aveva i suoi mal di testa a Helston, anche senza che ce lo dicesse. Quando sta male è piuttosto pallida e ora ha un colorito luminoso e vivace sulle guance, proprio come quando l'ho incontrata per la prima volta. Ma papà, disse Margaret esitando, sai, penso che siano delle vampate per il dolore. Sciocchezze, Margaret, ti ripeto, hai troppa fantasia. Sei tu a stare poco bene, secondo me. Fai chiamare il dottore perché ti visiti domani e poi, se ti fa stare più tranquilla, potrà visitare anche tua madre. Oh, grazie, papà caro, mi farà più contenta, davvero. E si sollevò verso di lui per dargli un bacio. Ma lui la spinse via, seppure con gentilezza, come se lei avesse suggerito idee sgradevoli, delle quali sarebbe stato contento di sbarazzarsi più in fretta possibile, così come della sua presenza. Camminò su e giù per la stanza con passo inquieto. Povera Maria, disse quasi pensando a voce alta. Magari un uomo potesse fare la cosa giusta senza sacrificare gli altri. Odierò questa città e anche me stesso se lei. Oh, ti prego, Margaret, tua madre parla spesso dei vecchi posti, di Helston, intendo. No, papà, disse Margaret afflitta. Allora, vedi, non è questo che la logora. Mi è sempre stato di conforto pensare che tua madre fosse così semplice e aperta da permettermi di conoscere ogni suo piccolo malcontento. Non mi nasconderebbe mai niente che riguardasse seriamente la sua salute. Non è vero? Margaret? Sono abbastanza sicuro che non lo farebbe. Pertanto, non farmi sentire queste sciocchezze deleterie. Vieni, dammi un bacio e corri a letto. Ma lo sentì camminare con passi lenti, come un orsetto lavatore, dicevano lei e Edith, molto dopo che aveva finito di spogliarsi con apatica lentezza, molto dopo che lei nel letto si era messa ad ascoltare.